Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Un buon Ferragosto, gentili ascoltatori, ben ritrovati. Nessun luogo è lontano. Il saluto vi viene anche da Mire Lucchetti, Massimo Brugnone in redazione e Fabio Cantadori alla parte tecnica. Vi ricordo che anche quest'oggi potete commentare la puntata su Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 oppure su Twitter Nessun Luogo 24. Se poi volete inviare commenti via mail, nessunluogo@radio24.it. E quest'oggi vi propongo una riflessione, un tratteggio su quella che potrebbe essere la guerra del futuro. I droni sono una delle principali armi utilizzate soprattutto dall'esercito statunitense, ma non solo, anche quello israeliano. Le statistiche indicano un crescente utilizzo di questi velivoli. È sbagliato dire senza piloti perché il pilota c'è, è semplicemente a distanza, ma questi velivoli dall'alto contenuto tecnologico, per fare un esempio, in Pakistan dal 2004 al 2012 hanno condotto 336 attacchi. È questa la guerra del futuro, sempre più tecnologia e sempre maggiore distanza del pilota, dell'elemento umano, di questo parliamo oggi a Nessun Luogo Lontano. È meglio essere temuti o rispettati? Io dico, è troppo chiedere entrambe le cose. Con umiltà vi presento il missile Jericho. Alla base. Tony Stark. E questa è la guerra, a metà tra realtà e finzione, però ad alto contenuto tecnologico, che Hollywood si è immaginata era Iron Man con Robert Downey Jr. Oggi però stiamo coi piedi per terra, anche se parliamo di droni ed aerei. Lo facciamo con Gian Andrea Gaiani, direttore della rivista Analisi Difesa. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, Gian Andrea, partiamo intanto dalle statistiche. Secondo il Bureau of Investigative Journalism, intanto l'esercito americano è quello che più utilizza i droni, hanno raccolto le statistiche su tre teatri fondamentali, che sono uno il Pakistan, l'altro lo Yemen e il terzo è la Somalia. Hanno calcolato il numero di operazioni appunto nei tre luoghi. E innanzitutto la prima domanda che viene da farsi è: Pakistan, Yemen, Somalia, più il teatro è complicato, più l'utilizzo di alta tecnologia si rende necessario? Sì, si rende necessario anche perché i teatri operativi di cui tu stai parlando sono teatri operativi, come dicono i militari, asimmetrici. Non c'è in corso una guerra contro un esercito nemico. I velivoli teleguidati dell'aeronautica statunitense e della CIA, non ci dimentichiamo la flotta parallela di velivoli teleguidati utilizzati dall'intelligence americano, dalla CIA in questo caso, compiono incursioni contro obiettivi che sono per lo più asimmetrici, cioè gruppi di guerriglieri, per lo più leader di gruppi guerriglieri, quindi o terroristi. Nel mirino di queste incursioni non ce li dimentichiamo i leader di Al Qaeda in Pakistan, della rete Haqqani talebana in Pakistan, ma anche leader di Al Qaeda in Somalia e nello stesso Yemen, dove è stato ucciso uno dei colpi più recenti e efficaci degli americani, lo stesso Awlaki, capo di Al Qaeda in Yemen, uno dei bersagli dei ricercati più importanti per terrorismo negli Stati Uniti in questi ultimi anni. Quindi diciamo che questo tipo di armamenti sono efficaci perché permettono di non rischiare la vita di truppe sul terreno, di controllare il territorio, di colpire quando lo si decide, perché i teleguidati, i droni, come si dice comunemente, hanno apparati di sorveglianza, sono in grado di tenere sotto controllo un bersaglio e colpirlo, ad esempio, quando non c'è il rischio di danni collaterali, non c'è il rischio di colpire civili. sono velivoli che restano in volo anche 30-40 ore e quindi hanno un'autonomia ben maggiore dei normali aerei da combattimento, però ecco, non sono velivoli con i quali si vincono le guerre, sono velivoli con i quali si possono uccidere i capi terroristi, alcuni miliziani oppure anche forse lo stesso Gheddafi, che l'anno scorso venne bloccato da un'incursione dei droni americani seguita poi dall'attacco dei miliziani libici. Ecco, hai accennato al fatto di colpire obiettivi ben precisi, come in tutte le guerre, come in qualsiasi utilizzo di armi, in realtà le vittime civili ci sono molto spesso e i droni da questo punto di vista non fanno eccezione. Vi sono anche, come dire, alcune voci si levano dicendo addirittura, insomma, si va a colpire in teatri, appunto, come dici tu, non operativi, non siamo sulla front line, non siamo in quello che è, come dire, una guerra dichiarata, non siamo al fronte e quindi anche magari gli stessi civili non sono preparati. E quindi si pone il problema dell'utilizzo di questi droni in aree magari densamente popolate di civili. Quanto la tecnologia soccorre in questo senso e quanto invece l'errore è dietro l'angolo? La tecnologia soccorre è moltissimo. Basti pensare che anche se oggi i danni collaterali, cioè le vittime civili involontarie, addirittura anche le vittime del fuoco amico, l'attacco che colpisce per errore i nostri soldati, fanno molta più notizia di un tempo, ma i numeri sono molto più bassi. Nelle guerre del passato, anche solo nella guerra del Vietnam, a moltissimi casi l'artiglieria o gli aerei americani hanno colpito le postazioni americane per errore, il numero di civili uccisi era di migliaia di unità. Oggi fanno notizia 10 civili uccisi, certo si tratta sempre di errori e di perdite gravi, ma la tecnologia ha ridotto in maniera evidentissima e molto forte questo tipo di rischi. E questo non toglie ovviamente che questo pericolo si corre soprattutto quando, come dicevamo prima, il nemico non ha un uniforme, quindi è un miliziano che si veste con abiti civili e quindi è difficile anche capire se l'uomo che hai colpito, gli uomini che hai colpito con il missile lanciato dal drone sono soltanto dei pastori o sono veramente dei miliziani. È difficile colpire la casa di un capo talebano della rete Haqqani senza colpire anche la sua famiglia con la quale lui vive. Il nemico senza uniforme è un nemico che si mischia ai civili, quindi le incursioni con questo tipo di bersagli inevitabilmente coinvolgono anche la popolazione civile. Diciamo che la guerra segreta che Obama ha scatenato in alternativa alle guerre più aperte, più impegnative, con centinaia di migliaia di soldati, anche molto più costose di quelle che furono quelle dell'amministrazione Bush, quelle in Iraq, quelle in Afghanistan. Obama ha scatenato un tipo di guerra che coinvolge e mischia intelligence, forze speciali e appunto i velivoli teleguidati supportati dai satelliti, da altri sistemi d'arma ad alta tecnologia. È un tipo di guerra più silenziosa che provoca sicuramente meno vittime, che negli obiettivi dell'amministrazione statunitense dovrebbe consentire di raggiungere risultati che io, a mio parere, saranno soprattutto di tipo politico, appunto l'uccisione di Osama Bin Laden, di Aulaki, di altri leader che dà una grande visibilità mediatica, ma purtroppo, come la storia militare ha sempre insegnato, i conflitti si vincono e si vinceranno sempre con gli scarponi dei soldati sul terreno, anche se questo è un lusso che dopo l'Afghanistan e l'Iraq l'Occidente, forse anche la stessa America, fa fatica oggi a permettersi. Ecco, per dare una dimensione, citavo la fonte di Bureau of Investigative Journalism, cita proprio le azioni dei droni della CIA in Pakistan dal 2004 al 2012, su un totale di operazioni di 336, le uccisioni sono state tra 2532 e 3251, i civili uccisi tra 475 e 879. Questo per dare un parametro di quelli che sono, purtroppo con un'espressione che non rende giustizia ovviamente alla morte, le cosiddette vittime collaterali. In realtà, più che la distanza del pilota su queste operazioni incide sulle vittime civili, il teatro in cui si compie, perché se capisco bene non è che con un pilota in carne ed ossa si potrebbero evitare queste vittime, è il fatto che molto spesso queste operazioni sono condotte su obiettivi specifici che spesso si nascondono in ambiti civili, è corretto? È corretto, ma anche c'è anche un aspetto relativo ai costi e all'utilizzo dell'arma giusta per l'obiettivo giusto. E se devi colpire un obiettivo militare in territorio nemico, un obiettivo fortemente difeso in un conflitto convenzionale, l'arma migliore sono dei cacciabombardieri, sono veloci, colpiscono dall'alto gli obiettivi e sono in grado di effettuare azioni molto massicce con armi ad alta capacità di penetrazione e di distruzione. Ma se se l'obiettivo di chi conduce l'azione militare è un capo terrorista che si nasconde in una delle tante casupole di fango e sterco in un villaggio dell'Afghanistan orientale, dove l'importante è individuare la casupola giusta e individuare anche il personaggio che è l'obiettivo del nostro raid, allora il drone, il velivolo teleguidato è l'arma ideale, perché non sta in volo poche ore come un cacciabombardiere e per restarci di più deve essere rifornito da aereo cisterne con costi anche elevati e un'usura, uno stress del pilota molto elevato. Il velivolo teleguidato è pilotato a distanza, sta in volo anche 30 ore, un Reaper può stare in volo anche più di 30 ore, un Reaper statunitense. Porta 1800 kg di missili e bombe, sufficienti a distruggere un bersaglio non così protetto, ma semplicemente mischiato alla popolazione. Può stare in volo in queste ore anche moltissimo tempo soltanto per cercare con le sue telecamere il bersaglio, individuare la casupola dove si nasconde il capotalebano di Al-Qaeda, riconoscerlo con le telecamere ad alto ingrandimento, e visualizzarlo, trasmettere queste immagini a tutti i centri di comando fino al Pentagono, per fare un esempio, dove qualcuno dirà via, ok, qualcuno potrebbe essere anche lo stesso Presidente Obama, benissimo, autorizziamo il lancio e il pilota che teleguida a distanza, magari dagli Stati Uniti, con un click fa partire uno o più missili che distruggeranno esattamente quella casupola dove si è, vive il personaggio individuato e riconosciuto dal drone. Quindi è l'arma giusta per questo tipo di guerra, non è l'arma giusta per ogni guerra, è l'arma giusta per una guerra appunto che vede come obiettivo personaggi specifici e singoli uomini spesso, non tanto organizzazioni o comandi o reparti nemici. Nessun luogo è lontano. La guerra del futuro, l'utilizzo dell'alta tecnologia, partiamo dai droni, da questi velivoli con pilota a distanza. Abbiamo intervistato il generale di brigata aerea Gianni Candotti, ascoltate che cosa ci ha raccontato sui velivoli in dotazione all'Aeronautica Militare Italiana. L'Aeronautica Militare Italiana in questo momento ha in dotazione due tipologie di APR, uno è il Predator A, che è stato il primo assetto ad essere immesso nella linea di volo dell'Aeronautica Militare e successivamente è stato acquisito il Predator B, la cui capacità ancora è in fase di completamento. Attualmente i Predator A sono utilizzati in supporto al nostro contingente in Afghanistan e i Predator B li utilizziamo prevalentemente per sorvegliare le possibili attività che succedono, diciamo, nel nord del Kosovo. In passato sono stati utilizzati i Predator A anche in Iraq e il Predator B ha avuto un suo battesimo durante le operazioni in Libia. Ancorché la forma dei due assetti sia abbastanza simile, a meno di qualche particolare che forse può essere colto solo dall'osservatore attento, sono macchine di dimensioni e pesi e prestazioni nettamente diverse. Il Predator A è un velivolo di una categoria inferiore, più piccolo, con un minore numero di sensori, meno veloce e meno persistente, quindi può essere utilizzato a distanze più contenute rispetto a, chiamiamolo, il suo fratello maggiore. I vettori al momento in uso presso l'aeronautica militare sono vettori utilizzabili solo esclusivamente per missioni di ricognizione e sorveglianza. Modelli uguali di questo vettore, ovviamente con degli accessori che il Tali ancora non ha, possono essere anche armati con varie tipologie di armamento e utilizzati in funzione delle esigenze per cui saranno destinati. Nell'ambito delle attività di sviluppo capacitivo della Forza Armata, uno dei compiti che viene assegnato è quello della capacità di ingaggio di precisione. In tale ambito è in fase di sviluppo una capacità di questo tipo anche sui Predator B. Tuttavia le negoziazioni sono in corso, non vengono svolte nel mio settore, e quindi non potrei essere più preciso su questo elemento. Tuttavia posso dire che sono attività, quelle di costruire una nuova capacità, che non sono né semplici né brevi, e presumibilmente ove le attività attualmente in corso andassero a buon fine, prevedo tempi dell'ordine di almeno 2-3 anni. Questa allora la prima parte del commento del generale Candotti, lo ascolteremo ancora. Rispetto, Gianandrea, ai modelli in utilizzo delle forze aeree americane, i Predator hanno caratteristiche molto diverse? Diceva il generale Candotti, loro li chiamano Predator A e Predator B, gli americani li definiscono anche il Predator, il mezzo più piccolo che può lanciare 2 missili Hellfire nel peso di circa 50 kg l'uno, e l'altro, il Predator B, è noto anche come Reaper. Reaper significa mietitore, un nome che è tutto un programma, si tratta di un velivolo essenzialmente da attacco che infatti può portare fino a 1800 kg di equipaggiamento e quindi anche di bombe e missili, e sono velivoli che hanno appunto questa doppia capacità, sorveglianza e attacco, prolungata nel tempo, e costituiscono anche per gli italiani che li utilizzano appunto in Afghanistan, li utilizzarono in passato in Iraq, li hanno utilizzati finora disarmati, appunto, costituiscono una buona capacità di sorvegliare il territorio sul quale si muovono le pattuglie dei soldati, sul quale si muovono i convogli, e quindi garantire una sicurezza anche indiretta, appunto grazie alla strumentazione di bordo e alla eccezionale autonomia di questi velivoli. Ecco, Gianandrea, quanto l'assenza dell'elemento umano, secondo te, può inficiare le missioni del Predator? Cioè, il fatto di non avere il pilota a bordo, ma il fatto che ci siano telecamere, e quella telecamera è poi osservata da un monitor a magari miglia e miglia di distanza, che cosa toglie? Qui stiamo parlando proprio, no, di come evolve il soldato moderno, di come evolve anche la strategia. Ma guarda, io ho visto in Afghanistan, prima ancora in Iraq, le centrali degli italiani, degli alleati, dalle quali venivano pilotati i Predator. Ho visto alcune missioni seguendole sul monitor insieme agli operatori. E ho visto che richiede fare il pilota, ovviamente in questo caso un pilota che sta seduto davanti a una console, non vola, di un velivolo del genere, di un drone, è un lavoro difficile, stressante. Forse anche se ha sollecitazioni fisiche diverse dal volo vero, ma è un lavoro stressante perché devi addestrarti a riconoscere, a interpretare in maniera il più possibile perfetta quello che le immagini trasmettono. si parla anche di sensori che trasmettono immagini notturne all'infrarosso, insomma è un lavoro difficile fare il pilota di questi, l'addestramento come in tutti i lavori difficili aiuta a renderlo efficace, la possibilità di confrontare diverse fonti, diversi parametri per avere la certezza di aver individuato un obiettivo, insomma è un lavoro difficile, però io credo che più che togliere questo tipo di tecnologia aggiunga. Noi pensiamo a quanti Predator, non se ne parla mai, quanti di questi Predator o Reaper sono caduti, per qualcuno abbattuto, qualcuno perché ha subito danni. Ricordiamo il super segreto RQ-170 Sentinel che è decollato dall'Afghanistan per sorvolare i siti nucleari iraniani, è stato abbattuto a quanto sembra dall'antiaereo iraniano oppure è caduto per una avaria. Cadendo i suoi segreti sono caduti forse in mano all'Iran, altri velivoli sono caduti in Afghanistan, in questi casi di solito arrivano cacciabombardieri o forze speciali che distruggono il relitto per impedire che tecnologie e sensori possano cadere in mano al nemico, ma nessun pilota ha mai rischiato di essere catturato vivo dai talebani mentre sorvolava le loro roccaforti nel Waziristan. Sì. E questo è un vantaggio che soprattutto in una società come quella occidentale, che mal tollera le perdite, che pensa che le guerre si possono combattere appunto senza avere caduti o avendone pochissimi, beh, è un vantaggio non indifferente anche per la politica e per chi deve autorizzare l'impiego di questi velivoli. E insomma, da questo punto di vista, come dire, la politica di Obama è stata emblematica, insomma, perché ha dovuto fare i conti con le vittime della lunghissima missione in Afghanistan. Ascoltiamo sulla presenza umana, cioè quanto l'elemento umano incide sulle missioni dei Predator, sempre il generale Candotti. Ovviamente l'occhio umano ha delle capacità che sono diverse da quelle di un sensore optoelettronico. Tuttavia, quando poi uno è di fronte al mezzo che lo impegna in certe attività, per quanto è stata la mia esperienza anche di pilota, non di APR ma di velivoli, nel momento in cui uno è coinvolto nello scenario che sta vivendo, non vedo grandi differenze fra colui che siede dentro la cabina di pilotaggio di un aeroplano e il pilota che invece sta a terra in una stazione di comando e controllo di un mezzo a pilotaggio remoto. È un po' la stessa cosa che succede quando il pilota viene messo a terra in un sistema di simulazione. Lui sa perfettamente di non essere in volo, in quanto si tratta di uno scenario sintetico che gli viene presentato. Tuttavia il coinvolgimento diventa tale a un certo punto che è difficile fare delle distinzioni fra la situazione reale in volo e quella che viene percepita a terra attraverso un'interfaccia più o meno sofisticata. E qui, come avete sentito, entra anche in gioco l'esperienza, no, di un pilota come il generale Candotti. Gian Andrea, stiamo toccando anche un punto molto delicato, che è quello appunto della politica e di un Occidente sempre meno abituato. Poi potremmo, come dire, giudicare o meno questa attitudine dell'Occidente, ma è chiaro che le guerre costano, sopportare perdite umane non è assolutamente facile. Volendo fare un ragionamento però più ampio, forse storico o quasi al limite del filosofico, ormai sono secoli che le guerre si combattono in maniera sempre diversa e con una progressiva distanza, se vogliamo, no, dal teatro. Cioè la tecnologia sta creando una serie di diaframmi per cui i soldati hanno visori notturni, hanno armi sempre più potenti, per cui a volte sparano un nemico che a occhio nudo nemmeno non vedono. Che direzione si sta imboccando, secondo te, se è possibile, come dire, speculare su questo argomento così complesso? Si può sicuramente, nel senso che la tecnologia ha creato armi che hanno avuto sempre e che hanno sempre una maggiore gittata. un maggior raggio d'azione e una maggiore precisione. Questo significa che per distruggere, per colpire, per battere un obiettivo che cent'anni fa bisognava, al quale bisognava cent'anni fa avvicinarsi con truppe, con uomini, con mezzi, artiglieria, a qualche chilometro almeno, oggi lo si può fare da distanze spaventose. Gli americani addirittura stanno studiando l'impiego di missili balistici intercontinentali costruiti per portare testate atomiche, cambiando la testata ad altissimo esplosivo e trasformarli in missili altamente di alta precisione, capaci di distruggere in maniera convenzionale con alto esplosivo obiettivi in tutto il mondo. Quindi questo probabilmente è il massimo della tecnologia, diciamo, convenzionale non nucleare, che consentirà, che consente di colpire qualunque obiettivo in maniera rapidissima ed efficacissima a qualunque distanza. Questa è l'evoluzione tecnologica. Il nemico che non ha evoluzione tecnologica, il nostro nemico di oggi, che sono appunto i gruppi insurrezionali, i terroristi, cercano di portarci su un terreno a bassissima tecnologia, dove loro riescono ancora a fare la loro parte. Ed è quello che sta accadendo in Afghanistan, dove il kamikaze, dove il guerrigliero che sembra un pastore ma in realtà, oppure sembra un soldato afghano perché ne porta l'uniforme ma in realtà è un talebano, si avvicina ai militari della NATO e si fa esplodere o li uccide, provocando quel numero di perdite limitato in termini militari, perché 3.120 caduti alleati in 10-11 anni di guerra in Afghanistan sono un numero militarmente sopportabile per le nostre forze armate, quelle occidentali intendo, e anche un numero assolutamente non elevato. Pensiamo ai 4.500 caduti alleati in Iraq, pensiamo anche lì in 6 anni di guerra, pensiamo ai 20.000 caduti italiani, tedeschi, britannici a El Alamein in una settimana nel 42. Cioè, la guerra è cambiata anche in termini di numero di perdite, di vite che la guerra richiede. Oggi si muore di meno, ma queste perdite in Occidente sono sempre meno tollerabili. E allora la tecnologia serve anche a rendere gestibili politicamente le guerre, riducendo il numero dei caduti. Il nemico a bassa tecnologia, ma ad alta spendibilità di vite, come può essere appunto il jihadista o il qaedista, cerca di colpirci, provocando quelle perdite che, anche se per lui minime, per noi hanno un peso. Quindi il confronto, credo che anche in questo momento e forse anche in futuro, sarà soprattutto tra una tecnologia che cerca di ridurre al minimo le perdite e un nemico a bassa tecnologia che cercherà di provocarne quanto bastano per poterci costringere a ritirarci. In fondo quello che stiamo facendo dall'Afghanistan. Grazie Gianandrea Gagliani per averci tratteggiato le modalità di utilizzo e cosa servono, come vengono utilizzati i droni. Buona giornata, buon lavoro. Arrivederci a voi, a presto. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatori. Quest'oggi parliamo di quanto la tecnologia entri nel settore bellico, un ruolo fondamentale lo giocano gli Unmanned Aerial System, o dette in altre parole i droni, i velivoli a pilotaggio remoto. Abbiamo compreso meglio l'Italia, che ruolo sta giocando e che ruolo giocherà, ma anche dal punto di vista produttivo c'è un'azienda che Alenia Aermacchi. E in proposito abbiamo sentito Francesco Bernardi, che meglio ci ha spiegato limiti e prospettive tecnologiche riguardo a un progetto europeo che si chiama Neuron. Il programma Neuron fondamentalmente è stato lanciato dal ministro della difesa francese ed è stato supportato anche dal governo italiano, dal programma svedese, i greci e gli svizzeri, che però hanno delle partecipazioni un po' più minoritarie. L'intenzione è quella di realizzare un dimostratore tecnologico, quindi il full scale, cioè quindi alla dimensione di quello che poi sarà il velivolo futuro, di un velivolo da combattimento a pilotaggio remotato, che volerà intorno al 2012, a metà del 2012, come primo volo di dimostratore. Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo dimostratore sono fondamentalmente quelli di compiere le missioni aria-terra, che sono chiaramente inserite in un sistema di comando e controllo network-centrico, cioè tutto quanto viene comunque controllato da terra e c'è una sincronizzazione tra i velivoli che sono in aria in quel momento. Si cerca anche di realizzare una piattaforma stealth, e quindi che sia a bassa segnatura radar, con la possibilità di lancio di armamenti da un bar interno. Il progetto è un progetto guidato dalla SO, dove Alenia è il primo partner, infatti controlla quasi il 22% del workshare del programma. Le aree di maggiore interesse da un punto di vista anche tecnologico, in cui l'Alenia Armacchi partecipa, sono quelle di la produzione del sistema di generazione e distribuzione elettrica, lo sviluppo di componentistica a bassa osservabilità, che poi sarà un po' la parte chiave di tutto quello che riguarda i discorsi futuri che si faranno sugli UCAV, che comunque sono a livello europeo, sono iniziati da qualche anno, ma solamente a un livello di sviluppo di tecnologia propedeutica a un dimostratore. Ecco, UCAV che cosa significa? Unmanned Combat Aircraft Vehicle. Quindi un aereo comandato a distanza e per scopi bellici. Per scopi bellici, certo, per fare missioni che al momento sono fatte da aerei da combattimento. La fase che prevede la sostituzione entro il 2020-2025, o sostituzione o integrazione degli attuali velivoli da combattimento. Cioè si sta andando in una direzione in cui si prevede che dal 2030 ci sarà un'integrazione di velivoli da combattimento pilotati e non pilotati. Questo per ridurre anche le perdite di piloti. Sì. Ora, è chiaro che si tratta di velivoli molto complessi perché hanno devono essere completamente autonomi, quindi tu parti da una questione di autonomia di volo, di capacità di essere in aria per un certo periodo di tempo, la bassa osservabilità, la capacità di individuare un target, acquisirlo, trasmettere i dati e decidere anche se colpirlo o meno. Ora, questo progetto, il progetto di sviluppo di un UCAV, è visto dalle società aeronautiche come l'unico veicolo per continuare uno sviluppo tecnologico necessario per aziende come le nostre. Cioè è necessario fare un lancio di un programma a livello europeo, a breve termine, che vada a supportare lo sviluppo tecnologico che va in questa direzione. Altrimenti società come le nostre arrivano a perdere lo sviluppo tecnologico che hanno raggiunto sino adesso, perché progetti futuri continueranno ad aumentare lo sviluppo di determinate tecnologie in alcune aree e sono comunque... Quindi se ho ben capito, lo sviluppo tecnologico di velivoli da combattimento a pilotaggio remotato è in qualche modo una via obbligata per lo sviluppo tecnologico, per molte aziende, tra cui voi. No, non è tanto una via obbligata, è un passo che verrà fatto, perché comunque adesso che si sta andando nella direzione di cercare di aumentare il numero di missioni attraverso sistemi che sono a pilotaggio remotato. Abbiamo visto comunque negli ultimi scenari, negli ultimi anni, attraverso l'utilizzo sempre maggiore che è stato fatto sia dalle forze armate americane, ma anche dalle forze armate alleate, gli americani, compreso gli italiani, che hanno utilizzato in scenari in Afghanistan e in Iraq molto i Predator che hanno acquistato dagli Stati Uniti. Quindi si sta andando sicuramente in una direzione che prevederà comunque l'utilizzo sempre di più dei velivoli a pilotaggio remotato e si sta sicuramente andando nella direzione di cercare di sostituire anche quello che adesso è considerato un obiettivo che prevede grosse difficoltà da un punto di vista di tecnologia, di arrivare quindi alla sostituzione anche nel futuro di velivoli da combattimento attraverso l'utilizzo di sistemi a pilotaggio remotato. La nostra partecipazione è quello di cercare, noi siamo integratori di sistema e chiaramente il costante aumento della complessità dei sistemi aeronautici è una parte che su cui cerchiamo di focalizzarci di più. Quindi stiamo cercando appunto di concentrarci su materiali avanzati, il controllo dello spettro elettromagnetico e soprattutto l'autonomia operativa. L'autonomia operativa è quella che permette al sistema di recepire delle informazioni, elaborare i dati, trasmetterli al sistema di controllo di bordo e di terra e poi prendere la relativa decisione in base a quella che è stata la programmazione della missione in partenza. Chiarissimo. Posso interromperti per una domanda? Siccome stai tratteggiando uno scenario che già mette, come dire, stai toccando i tasti di autonomia, di trasmissione dati, eccetera. In ultima istanza, cioè se dovessimo tratteggiare uno scenario fra una cinquantina d'anni, è possibile ipotizzare flotte di aerei esclusivamente di questo tipo? Cioè, a un certo punto, se due eserciti si devono scontrare, le aviazioni dei due paesi avranno i piloti a terra fondamentalmente. Questo è uno scenario fantascientifico oppure si lavora proprio su questo? Ma guarda, questo è una mia considerazione proprio personale. Allora, il discorso di arrivare a un livello tecnologico di questo genere, come appena te descritto, è una cosa, diciamo, che non credo che nemmeno fra una trentina d'anni si potrà vedere, perché l'accesso a certa tecnologia e le capacità di sviluppo di certa tecnologia sono limitate a certi paesi che hanno già raggiunto un livello tecnologico di una certa maturazione. È chiaro che si sta cercando di utilizzare sempre di più la macchina rispetto all'essere umano. Ora, dire che verranno completamente sostituiti secondo me è un azzardo. Dire che ci sarà sempre di più, ed è questa la direzione dove stiamo andando noi, di integrazioni tra macchine e umani, questo sicuramente. L'ultimissima domanda riguarda invece per chi lavora in questo settore, per chi progetta questo tipo di velivoli, qual è il più grande nemico? I competitor che hanno chiaramente la possibilità di sviluppare in maniera più costante e adeguata a determinata tecnologia necessaria, e il secondo sono anche gli investimenti. E questo era Francesco Bernardi di Alenia Ermacchi, che ci ha aiutato meglio a comprendere quali sono le difficoltà anche tecnologiche ed economiche nel realizzare velivoli di questo tipo. Ma adesso continuiamo a parlare di guerra del futuro, ma cambiamo decisamente pagina. C'è una guerra là fuori, amico mio. Una guerra mondiale. E non ha la minima importanza chi ha più pallottole, ha importanza chi controlla le informazioni. Ciò che si vede, si sente, come lavoriamo, cosa pensiamo, si basa tutto sull'informazione. Le informazioni e il trattamento delle informazioni sono certamente un'arma formidabile in mano alle grandi potenze. Ma non solo, cerchiamo di capirne di più su quella che è stata definita la cyberguerra. Alessio Pennasilico, hacker etico e security evangelist di Alba SP. Buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno. Allora, innanzitutto aiutaci a comprendere meglio hacker etico che cosa significa e security evangelist che cosa significa. Hacker etico significa sapere come si violano i sistemi e, anziché farlo per un proprio tornaconto personale, utilizzare questa conoscenza per spiegare agli altri come mettere in sicurezza ed evitare di essere violati, quindi evitare di farsi sottrarre informazioni. Security evangelist significa proprio andare e spiegare al maggior numero di persone e aziende possibili come fare questo. Allora, la guerra delle informazioni, la guerra informatica, sempre più riempie le pagine dei quotidiani. Virus informatici andati perduti, attacchi, cyberattacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti, gli ascoltatori sicuramente avranno letto, ricordano recenti articoli proprio su questi ultimi episodi. Aiutaci a capire meglio quanto è importante e quanto vengono utilizzate questi attacchi e questi virus, Alessio. sicuramente negli ultimi anni abbiamo assistito ad un mutamento piuttosto importante nel modo di fare intelligence dei governi a danno di altri governi, sia nel modo di fare offensiva, e sicuramente l'informatica ha assunto un ruolo predominante da questo punto di vista, e i forti investimenti che molti stati come Israele, Cina e Stati Uniti hanno fatto per creare delle task force in grado di recuperare informazioni o fare delle cose agli altri, la racconta piuttosto lunga. Ecco Alessio, per cercare di capire che cosa è possibile fare, cioè queste task force di informatici, quando leggiamo sui giornali hanno attaccato il tal sito o hanno mandato un virus per distruggere le centrali iraniane, che cosa significa? Che cosa è stato fatto? Le cose che vengono fatte sono molte e diverse. Si passa dagli attacchi chiamiamoli passivi, quindi che magari non vengono riconosciuti immediatamente perché non producono un risultato visibile per chi lo subisce, quindi per esempio mi introduco su una certa rete o su un certo server e vado a carpirne determinate informazioni. Se già è drammatico per un'azienda, pensarlo in ambito militare dove qualcuno possa ottenere in anticipo eventuali piani, strategie, dislocazione di forze o strumenti, evidentemente diventa drammatico. Ecco, recentemente l'amministrazione statunitense lamentava il fatto della perdita di controllo di questo virus creato apposta per andare a distruggere le reti delle centrali nucleari iraniane. Com'è possibile creare un qualcosa che dovrebbe esserti utile che poi ti si rivolta contro? Ma la storia è assolutamente affascinante e sembra uscita da una spy story di un film, se non fosse realtà. È un virus molto complesso che ha richiesto sia una discreta quantità in denaro per acquistare tutte le vulnerabilità che sfrutta questo virus, sia contemporaneamente una profonda conoscenza tecnica per poter scrivere un oggetto così complesso come questo virus, che è stato usato per andare a infettare in maniera molto precisa e molto puntuale un certo numero di computer che avevano determinate caratteristiche, quindi quelli che gestivano le centrali nucleari dell'Iran. Ecco, noi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano stiamo parlando della guerra del futuro, abbiamo fatto un esempio su tutti dell'utilizzo dell'alta tecnologia che sono i droni. Dal tuo punto di vista di informatico, quanto l'alta tecnologia rende più vulnerabili gli attori in gioco e quanto invece li tutela l'uno rispetto alle mosse dell'altro? Ma sicuramente in questo caso parliamo di attacchi molto più attivi di quello informatico, parlando di droni. Ci sono stati anche degli esempi di droni nemici che sono stati manipolati per farli atterrare in territorio, chiamiamolo locale, ingannandoli dicendo guarda sei tornato a casa, e così da poter capire che informazioni, come era stato programmato il drone, e capire che cosa doveva spiare, fotografare e quant'altro. Detto questo, sicuramente mette al sicuro le persone perché non c'è più un'interazione diretta di persone. D'altro canto, sicuramente questo tipo di tecnologia si espone a determinati attacchi come quello appunto che ha portato al furto di un drone statunitense da parte di un nemico spiato. Grazie. Allora Alessio Pennasilico, hacker etico e security evangelist per Alba SP, buona giornata e buon lavoro. Grazie. È tutto anche per questa puntata ferragostana di Nessun Luogo è Lontano. Il saluto vi viene anche da Mirella Lucchetti, Massimo Brugnoni in redazione, Fabio Cantadori alla parte tecnica. Vi ricordo che ci potete raggiungere su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Noi ci risentiamo domani alle 13:15. Un saluto da Giampaolo Musumeci.